scrivo qui sul vetro polveroso di un treno, non so perché. Amore disperato dal confine italiano che c'è fra me e te. Stanotte dormiremo qui nel campo jugoslavo, ma il nostro cuore è là a Sarajevo, a Sarajevo. Di là dal mare la puoi quasi toccare nell'oscurità, e Sarajevo sembra più bella. Mentre ti scrivo su una bianca betulla che è fiorita già, quel giorno mi sembrava di sparare per gioco a chi, perché, ma il buco sulla fronte di un ragazzo nemico da un anno è qui dentro di me. E a volte mi vergogno ancora di essere vivo, ti scrivo e tu sei là. Sarajevo, a Sarajevo, fra le colline circondate di